Questi sono i Depeche Mode sotto l'effetto dell'eroina che prendeva sempre il cantante. Sono i Depeche Mode eseguiti con uno smartphone, tablet, capito? Poi, sì. Provaci tu. Sono così lenti perché... Prova, dai, Drago, su con sto ditone. Ecco, va bene, grazie. Abbiamo capito, Drago, tu devi... Vabbè, tolto... devi avere il telefono quello con la rotella, ti ricordi? Quello con il... quello sì. Trinta, almeno i numeri li facevi giusti. È lunedì, dai, tacchiamo. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Wunderwaffer inaugura oggi una serie di sitcom all'interno di Chiedo Asilo. Sì, una divertentissima sitcom svizzera ambientata in casa di una tipica famiglia svizzera. Infatti si tratta di una sitcom radiofonica in lingua svizzera, cioè in svizzero tedesco, che è un dialetto utilizzato al posto del tedesco scritto Hochdeutsch o buon tedesco, oppure tedesco standard, che viene parlato generalmente in Germania, ecco. E viene parlato al meglio a Hannover. Nessuno di voi capirà una sola parola, ma statene certi, tutti riderete. Sì, perché Wunderwaffer è l'umorismo della... Com'era sto claim qua? Ma chi l'ha scritta sta roba? Perché Wunderwaffer e l'umorismo sono internazionali. Ah, così, Va bene, dai, ascoltiamo. Du Schafsäcko! Ich saß auf dem Tisch, du Schlampe! Heb schnurren und friss du! Zieh die Reste hin, ja zum Kotze, ich bring dich um! Che ridere, sì, io non ho capito molto, però fa ridere. Ma praticamente no, c'è uno che torna a casa, la moglie lo accoglie e giù insulti, no? Sì. E allora lui insulta lei, e alla fine lei insulta lui, e alla fine c'è una battutona, no? Pam, sì. Così. Però quella non l'ho capita, proprio l'ultima battutona non l'ho capita. Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. Dopo il momento dello sponsor è il momento di parlare di vestiti, forza. Ah, la moda Y. Milano Y, capitale Y della moda Y. No, no, no, vestiti sono in senso lato. In realtà parliamo di tecnologia. Beh, ma dai, Tito. Ma fai scattare il Tito. Se sempre parli di vestiti, allora parli di moda Y, di Milano Y, capitale Y della moda Y. Io sono di Milano Y, nato a Milano Y, quindi sono un'esperta Y di moda Y. Devo andare avanti. Ti dico che i vestiti sono solo un pretesto. Pretesta Y. Quando su due giornali diversi leggi due notizie che alla lunga si contraddicono, tu cosa fai? Se non parlano di moda Y, io me ne frega Y. No. Allora, da un lato abbiamo Apple e Google che stanno lavorando da anni allo sviluppo di dispositivi da interfacciare col proprio smartphone che si possano indossare, in pratica dei veri e propri vestiti elettronici. Dall'altra parte c'è un'azienda che lancia, tutta convinta, sul mercato, la fascia anticellulare per le donne incinte. Scusa Drago, sono distratto che ci sono delle ragazze qui dalla finestra dell'asilo che mi stanno salutando e fanno dei gestacci. E quindi? No, quindi non lo so. Allora parlavi di donne incinte, Drago, cioè chi se ne frega? Allora, da un lato no? Dall'altra parte c'è un'azienda che lancia tutta convinta sul mercato la fascia anticellulare per le donne incinte. Ma come? Cellulite? No, è una fascia che dovrebbe servire a proteggere il feto dalle radiazioni emesse dai cellulari, capito? Da una parte pensano ai vestiti interfacciati ai computer. Sì, dall'altra si creano dei prodotti che proteggano dalle radiazioni dei cellulari, dei computer, eccetera. Ti sembra un mondo dotato di senso questo? Sì. Che poi, tra l'altro, scusa, pensano al feto, ma noi che siamo già nati, a noi chi ci pensa? Ci pensano Google e Apple con i vestiti radioattivi. Ma no, io anch'io voglio la fascia antiradiazioni in cellulite. È fantastica, è una specie di pancera. Pancera, guai. Che sfrutta il principio della gabbia di Faraday per limitare l'esposizione del bambino alle radiazioni durante la gravidanza. La gabbia di Faraday? E c'entra stecca con la moda Y. E certo. Fa rima. La gabbia di Faraday. Signor Faraday. Signor Faraday. Si calmi, signor Faraday. Fatemi uscire. Signor Faraday. Signor Faraday. Signor Faraday. Chiedo Asilo! E ora, bambini, ricreazione. Oi, Gildo. Allora, ascoltami un po'. Oggi io ti faccio una lezione di peer education, no? Peer education. Ecco, siccome io, i miei mi hanno fatto fare un corso, no? Faccio dei corsi ultimamente. Io voglio trasmettere a te la mia sapienza, la mia conoscenza. Allora, questo peer education sarebbe un corso di pronto soccorso, di primo intervento. Pronto soccorso, no? Che succede qualcosa, uno si fa male, e ti insegno ai bambini come fare, no? Tipo, facciamo un esempio, no? La prima lezione è come chiamare l'ambulanza, i dottori, no? E c'è un numero che bisogna fare al telefono, 118, no? E chiami e dici, ho bisogno di aiuto. Ecco, adesso facciamo un esempio pratico. Ascoltami. Metti che siamo a casa tua, tua mamma sta spolverando il lampadario sulla scala. La mamma, sì. Scivola. Può capitare, no? Scivola la pantofola e lei cade. E si fa male a un ginocchio. Sì, ma per finta, è un esempio, no? E non riesce ad alzarsi. E dice, aiuto, aiuto, non può neanche arrivare al telefono, no? E quindi devi farlo tu. Tu devi farlo perché tu sei suo figlio e in quel momento non ci sono. Io casualmente. Ci no, tu ci sei. Allora, devi andare al telefono, no? E devi fare il numero 118, 118. 118. Tu tiri su, 118, e risponde un operatore di là, no? Facciamo finta che io sono l'operatore. Sì. Tu mi chiami, dico, sì, pronto soccorso, mi dica. Sì, sì, sì, questo è il pronto soccorso, mi dica! Mi dica! No, sì, prima, mi dica lei, come si chiama? Come si chiama? Io sono l'operatore. Lei chi è? Chi è lei? No, Gildo, così esageriamo, no? Devi essere un po' più, come dire, diretto. Devi dire il tuo nome, dire chi sei e dire cos'è successo, no? Sono a casa, sono un bambino, mia mamma è caduta dalla scala, si è fatta male, non si può alzare, bla bla bla. Bla bla bla. No, non il bla bla bla, tutto il discorso, no? Allora, pronto? Pronto? Sì, pronto soccorso, mi dica? No, allora, partiamo male, Gildo, ascolta. Sì, pronto, qui pronto soccorso, mi dica, non è che magari è un problema? Non è che magari ha bisogno d'aiuto? Ha bisogno d'aiuto, ecco, mi dica cos'è successo, ma lei come si chiama? Lei come si chiama? Vabbè, fa niente il nome, ma mi dica cosa è successo. Cos'è successo? Non è che per caso lei magari, lei si chiama Gildo e sua mamma è caduta dalle scale. Gildo! E si è fatta male? Si è fatta male! Si è fatta male la mamma, la sì! Mamma. Allora, dove si è fatta male? Dove si è fatta male? Al ginocchio, forse. È tipico il ginocchio. Al ginocchio! Ecco, allora, mandiamo subito un'autoambulanza. Cortesemente dovrebbe dirmi l'indirizzo. L'indirizzo! Sì, l'indirizzo, no? L'indirizzo via tale tali, numero, bla bla. No, bla bla! Pronto, Gildo? Pronto! Ma non sai la notizia? La notizia! Tua mamma si è fatta male, è caduta dalle scale! La mamma! Si è rotto un ginocchio in mille pezzi! No! Sì! La mamma! Aiuto! Allora? Quindi? Cosa devi fare? Sei in piena emergenza! Emergenza! Sì, tu sei in piena emergenza! Tua mamma sta per spirare perché oltre al ginocchio aveva anche battuto la testa! È finita! E oggi anche oggi è finita! Ci stanno facendo le fotografie, dai sorridi che andiamo su Facebook. Ciao! E venite anche su Facebook, ciao. Ascoltatori, e lasciate i vostri like sui nostri video. Chiedo sì, like. Ma perché continui a dare la mail che nessuno ci va su sta mail? Ma Facebook chiedo asilo, Facebook bambino Alberto. Pieno di video, guardate i video. Videi, la radio da vedere. Oh. Chiedo asilo. Sorridi. Cheese.